dell'orfanato, se ricevo bene, capitolo A. E da vicino non è che te ne rendi molto conto, no? Dopo il 9 devi raddoppiare sempre la potenza per aumentare in punto S. Capitolo A. Da lontano si vede. Sì, vedrai che adesso fai un... Non dico che andrai alla grande, però andrai molto meglio. Perché rispetto a cosa Luca ti ha detto che hai guadagnato 10 punti, perché da 9.20 gli arrivi a 9.30, 9.35, così che hai guadagnato tantissimo. Più da lontano, perché ricevevo male, Mario, capito? Il discorso è quello, è che ricevevo male io, invece adesso me ne accorgo che sono tutti segnali furti, cazzo, tu mi arrivi 9.35, Giuseppe 9.30, sono segnali che non mi arrivavano mai. Ma gaffa, d'accordo, sono contento per te, riprenditela a Falco. Ecco, no, Nico, ma Nico, aspetta un attimino, e io lo tagli di segnale, cosa ti arrivo? Guarda, è un controllo di pagina, vedi? Solo, mannaggia, Mario. Qua c'è la mamma, c'è. Ecco, Antonio. No, qua c'è, la radio è buona, è la mamma, va bene. Ecco, si sente? Tutto. Ma sento come ti preoccupare, che esci bene. Sto scherzando, sto scherzando, stavo scherzando. No, comunque ha migliorato la tariffa, a parte di Sfinzi, ha migliorato parecchio, Ma per la TV potevo dire di Don Play, ma dai, te l'avete detto la danza, con la caratura, come cambia la cosa? Altro che i bravi di settembre, ma non manco a Bari. Che cosa? Volevo dire la Don Play la tua, forse la vedi con i radiali che c'hai, li metti i radiali del Don Play, sai quanto pompa? Sì. Allora dopo passo ricompriamo, dai, e piazziamo il radiale della Grand Prix. Io c'ho tre radiali di scuola, al limite li metti quelli, sono lunghi quasi 2 metri, già vanno bene, parte e avanza. Ce ne ho tre, giusto e giusto, ti metti quelli e tu di quelli che c'hai. Cappa, ma non è che dopo la stazionale, no, poco. Ma ragazza, tranquilla, non è là. Appa, quando vengo a ritirarli? Ma secondo me facciamo scendere, se c'è la macchina, se ne abbiamo campagna te lo prendi, sono il cellulli. Cappa. Va bene, dai, se sale mio compadre, faccio un saltino così vengo, ti prendo, scendiamo in campagna, le prendiamo, dai. D'accordo, così tu ti atti, si apposta. Molto guadagno c'è con quelle. Eh beh, già un vino, una salcosa, Ma come sono, il vetro origine? Alluminio. Ah, già pagava. Così si appoggiava più bene gli uccidi, Uccidi o paduni, come che sono? Comunque sono contento di essere arrivato a... Aspetta un attimino, dopo dammi 2 secondi. Ti do la conferma un attimino, io sono piccolo e nero purtroppo, le cose bisogna, io mi scrivo tutto, la verità si dica, non mi sfugge neanche una virgola, aspetta un momento, allora, non so se in pochi sono che riescono a parlare, perlomeno, a Cotuzò e a adesso non riesco a leggere, ma la verità è. Allora, butto su e barone, mi copiato. A butto su già so come ci arrivavi, perché Ozieri, il punto più alto di Ozieri lo dovete arrivare per forza, perché per scendere per Butuso avevi, dunque, passando dove c'è l'ospedale, sali sopra, il punto più alto di Ozieri, poi c'è la discesa per Butuso e c'è il calarone, e arrivi per forza, perché Butuso ci sono stato, e c'è solamente una specie di montagnetta piccolina, cioè non è molto grande di fronte. Se lui è nella zona alta di Butuso, arrivi per forza. E poi sono arrivato a Barone, non so se si pronuncia così, e ho parlato con Albino, Radio Baccano. A Borone, non Barone, Borone. A Borone, sì, ha ragione, Borone. Visto, Da lì arrivi, tu c'è tutto quanto c'è che sono degli altri, anche Mario, non c'è problema di delle conferme, sta tranquillo, non si è bugiardo. Perché quando abitavo in Venezia, Mario già ci veniva tutti i giorni, sa con chi parlavo tutti i giorni io. Roba che non ci parlava nessuno da Sassari, parlavo solamente io e la donna di Alghero, e basta, non c'è nessun altro. Da considerare che io ho un palo da 2 metri, se sollevo al minimo, non sto dicendo molto, ma 1,5 metri, 2 metri, sollevo l'antenna, quella spara di brutto, Non so, c'è il palo non letto, certo, te l'ho letto io quando ti ho fatto la verità, se te l'ho letto io. Io parlavo quasi tutti i giorni con la Spagna, sembrava una telefonata, con la zona di Nuoro, parlavo con passo di cuore buio, mica passo di cuore buio, arrivavo 9:10 io lì. Figurati tu, con la 27 L che è stata lì. Sto dicendo, lì è una cosa fenomenale, è un punto, guarda, micidiale, per parlare per il centro Sardegna, tu c'è tutto aperto. Gappa. Comunque la GD è... GPE 27 5/8. Ho capito, vabbè, comunque la 27 devo vedere baruta di sciuro. Unificate la, perché che ne è molto di più di quanto vendeva a terra. Io l'ho messo a girare prima e poi ci ho messo a vedere i Grand Prix e con Papa. Ma a me ho portato un pezzo, era un po' a te, portava un pezzo. Poi dopo di me si era pensata così, se c'è modifica se l'ha fatta Paola di Miserios, perché ce l'ha uguale. Solo che era Luigi Vulcano. Sì, ma ci credo un po', ci credo. Cavolo, Miserios, a parte che con quelle radiali che ho arriva Miserios, e non è poco, Poi c'è con le radiali Grand Prix, pompa il doppio di quanto sta pompando adesso, quanto 95 pompa. Cava. Vabbè, ma considera che sono anche basso, mi è piazzata su...